Beh, devo dire che questo brano di Melissa Etheridge, Your Little Secret, è veramente molto bello. Tra l'altro, Melissa è una lesbica dichiarata da molto tempo. Questo mi permette di continuare il discorso serio che stavamo facendo prima. Dunque, questa è una trasmissione autogestita, curata dal Coordinamento Lesbiche Romane, che è un gruppo separatista, con sede politica all'interno del Centro Femminista Separatista di via San Francesco di Sales 1A. In altre parole, per chi lo conosce, è l'ex Palazzo del Buon Pastore, sì, dove un tempo si rinchiudevano le ragazze strane. Era proprio una casa di correzione per ragazze fuori della norma. Oggi, però, le ragazze strane hanno deciso di uscire dal Buon Pastore e, addirittura, esportare le loro stranezze. Infatti, nelle trasmissioni che andranno in onda, ricordo il martedì, parleremo noi lesbiche. Faremo alcune recensioni di libri, di film e verrà data l'informazione sulle musiche lesbiche indipendenti e poi il notiziario. Notiziario chiaramente dal nostro punto di vista, sì, perché abbiamo un modo di interpretare la realtà che rispecchia il nostro essere. Leggiamo ciò che accade partendo da noi, dalla nostra esperienza. Con queste trasmissioni vogliamo informarvi degli appuntamenti locali e nazionali che ci riguardano, di avvenimenti culturali e ludici. Quindi anche di vacanze, feste e cose di questo genere. E per chi volesse contattarci, può scriverci al Coordinamento Lesbiche Romane, via San Francesco di Sales 1A 00189 Roma, oppure può telefonarci al 6864 201, lasciando un messaggio in segreteria oppure inviando un fax. Se volete mettervi in contatto con noi o se avete notizie da darci, dunque, potete farlo. Ora però penso sia giusto presentarci un po' meglio come gruppo. Dunque, il Coordinamento Lesbiche Romane si è costituito all'inizio del 1995 e la nostra prima uscita pubblica è stata in occasione della manifestazione del 3 giugno sempre del 95 a Roma, quella più conosciuta come La prima parola è l'ultima sull'autodeterminazione della donna. Dopo di allora siamo state presenti come gruppo al Gay Pride di Bologna del 95 e di Napoli del 96, poi alla seconda settimana lesbica tenutasi a Bologna nel 96 e siamo state tra i gruppi promotori del convegno di giugno 97 al Buon Pastore, quello sul confronto tra gruppi separatisti e non. Abbiamo inoltre pubblicato articoli, mandando delle lettere sulla stampa nazionale, di alcuni film che noi definiamo porcate, quelli cioè che ci relegano in stereotipi classici, dove siamo non a caso sempre assassine, depravate, e sempre non a caso questi film sono stati scritti da non lesbiche, che però avevano il pallino di rappresentarci. Come gruppo, uno dei nostri interessi fondamentali è anche quello di collegarci e coordinarci a livello locale e nazionale e, come alcune di noi amano dire, mettersi in rete per creare circuiti culturali attraverso i quali combattere il sistema culturale e politico dominante. Io voglio soffermarmi ancora un po' sulla concezione del sistema culturale e politico dominante, ma prima vi chiedo di fare particolare attenzione al breve stacco musicale che sto per mandare. Questo perché le note che sentirete fra poco saranno una sigla, la sigla della musica lesbica indipendente e dichiarata, soprattutto. Non è nostra intenzione, infatti, fare il coming out per nessuna. Ciao, sono Deborah. Il gruppo lesbico che vi presentiamo oggi viene dalla Germania e si chiama Kick la Luna. Flowing for discovering your name. Le Kick la Luna sono un gruppo lesbico tedesco, composto da Jutta Keller alle chitarre, Ann Brake alle percussioni, Ulrike Pfeiffer al basso e alle percussioni, ed Elke Woz, voce principale più interessante del gruppo. Ho avuto modo di assistere a un loro concerto che si è tenuto a Bologna durante la quinta edizione del Festival del Cinema Lesbico Immaginaria, e vi assicuro che sono state strepitose. Il brano che abbiamo appena ascoltato è tratto dal primo dei loro due CD, e si intitolava Dark Street. È in pratica una condanna della cultura patriarcale imperante, che impedisce alle donne di godere della bellezza della notte, passeggiando libere per le strade della propria città. Il timore nasce in primo luogo in noi stesse, condizionate dall'atteggiamento predatorio maschile. La speranza è nel riappropriarci di noi, ritrovando il coraggio di voltarci e di guardare dritto negli occhi il nostro inseguitore. Speriamo che vi siano piaciute, perché riascolteremo presto queste ragazze durante le nostre trasmissioni. Bene, torniamo ora al discorso sulla politica culturale che vogliamo fare, discorso che abbiamo interrotto per sentire queste bellissime canzoni. Dunque, innanzitutto noi non vogliamo creare adepte, quindi tranquillizzatevi, non vogliamo convincere nessuna a vivere da lesbica se non lo è. Il nostro intento è quello di intaccare la cultura dominante che va contro coloro che invece sanno di essere lesbiche e vogliono vivere come tali. Noi vogliamo, come dire, cominciare a far sì che si generino meccanismi di costruzione sociale e anche culturale che garantiscano una reale e vasta gamma di possibilità di scelta e chiaramente tra queste scelte vogliamo che sia ben visibile quella lesbica. Noi non chiediamo di essere accettate o tollerate, né tantomeno tutelate. Vogliamo molto di più. Il nostro essere presenti, il nostro combattere, per noi è fondamentale, in quanto puntiamo, con il nostro porci in essere, ad una cultura dalla quale scaturisca una crescita, e la crescita che ci auspichiamo è quella dettata da una volontà precisa, pronta a rinnegare scelte che si basano sulla sopraffazione e sulla oppressione e sulla assoluta negazione di una possibile scelta diversa. Questo manifestarci significa per noi dare parola, voce e corpo ad una cultura di donne, elaborata da donne, una cultura di espressione in cui le esperienze diverse si confrontano, si articolano e si provocano anche, rimandandosi però intelligenza e consapevolezza, mai sopraffazione. Questa musica fragile tra le tue dita, a queste dolci oscenità in una notte che ci somiglia, a questo cercare rime, rubarle tra le tue ciglia, tra le tue ciglia. La vita, questo cercarsi per sempre, questa sorpresa infinita. Ed erano Rossana Casale e Grazia Di Michele con Gli Amori Diversi. Siamo sempre il coordinamento Lesbiche Romane e trasmettiamo all'interno dello spazio femminista autogestito sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. gli appuntamenti. Dal 6 all'8 dicembre si terrà presso la masseria Santa Cecilia di Monopoli, a 40 km da Bari, il quarto incontro lesbico dei gruppi e delle singole separatiste. All'ordine del giorno è la creazione di una progettualità comune per l'organizzazione di un movimento nazionale. Per informazioni e prenotazioni dei posti letto, chiamare Pina allo 080 55 61 868. Dal 10 all'11 gennaio si terrà a Bologna una riunione del Forum delle Lesbiche, composto da gruppi e singole, separatiste e non. Uno dei punti all'ordine del giorno è l'organizzazione della terza settimana lesbica. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Forum, via San Zenobi 54, 50 129 Firenze. Telefono e fax 055 47 6557. Le persone di riferimento sono Elena, Moira e Valeria. Si è invece concluso il 14 novembre, presso il Cinema Umberto di Roma, il secondo festival di cinema gay e lesbico Fuori Schermo. La programmazione lesbica non è stata degna di nota, ad esclusione dell'americano Hide and Seek, della bravissima Sue Frederick, del tedesco Heldin der Liebe, di Nathalie Persilier e Lily Besili, e della simpatica fiction americana Late Bloomers, di Julia Dyer. Siamo addolorate nel salutare per sempre Matilde Finocchi, lesbo femminista storica del movimento romano. La salutiamo con quello che lei ha scritto nel 1980, nella prefazione del libro, e la madre, tra l'altro, è una pittrice. Secondo me non è proprio un libro, ma una raccolta di vita vissuta di varie donne, e questa volta, e per la prima volta in Italia, di donne lesbiche. E con loro ci siamo anche noi. Infatti, non sono proprio delle interviste, ma è un raccontare il loro, il nostro vissuto, è un confrontarsi, e scambiarsi idee, e finalmente un farsi vedere che esistiamo, che siamo reali e normali, cioè né malate né depravate o perverse, né qualsiasi altro attributo con il quale ci volete umiliare o farci sentire in colpa, ma che invece ci siamo dentro e fuori, e desideriamo e vogliamo che le altre, gli altri, ci vedano. E dopo le notizie dal nostro mondo, passiamo ora a cose dell'altro mondo. I Taliban sono al potere in Afghanistan dall'anno scorso e rappresentano la fazione islamica più misogina, maschilista e oscurantista della storia contemporanea. Hanno deciso che le donne non devono esistere, oltre a non poter uscire se non accompagnate da un marito, padre o fratello che sia, oltre a non poter lavorare, anche se vedove e prive dei mezzi di sostentamento, oltre a non poter farsi curare negli ospedali pubblici, se non in punto di morte, oltre a non poter studiare, leggere, tenersi informate, dal 23 ottobre non possono più trasmettere la loro voce tramite le onde di Radio Shariat, la radio della legge islamica gestita dai Taliban. Ovviamente per noi questa oppressione è inaccettabile e non può essere giustificata da nessun credo politico, religioso o di altra natura. Siamo arrabbiate e preoccupatissime, perché se le donne sono oppresse a tal punto, non riusciamo nemmeno ad immaginare cosa può voler dire essere lesbica in Afghanistan. Altrettanto inaccettabile è per noi l'atteggiamento dell'ONU, almeno come è descritto nell'articolo del manifesto dell'8 novembre. La giamaicana Angela King, vice segretario generale, responsabile per l'ONU in merito ai diritti delle donne, è in visita a Kabul dal 10 novembre e dichiara ufficialmente come scopo della visita lo stimolare meccanismi per acquisire, conservare e monitorare la parità dei diritti uomo-donna nel quadro delle norme e degli standard internazionali. Per noi è inammissibile parlare di standard e di attività di monitoraggio per una situazione così tragica che costa la vita a tante donne. Quello che ci vorrebbe è una presa di posizione forte, di estrema condanna e di denuncia per un fenomeno storico di oppressione come l'integralismo islamico di questo millennio. Per di più, la giornalista del manifesto sottolinea la difficoltà che l'ONU incontra nel dividersi tra l'assistenza richiesta e il rispettare le norme dei Taliban. Se questo è il terribile conflitto che vive l'ONU, potrebbe benissimo esimersi dall'intervenire, a meno che non ci sia un problema di coscienza, anzi, di incoscienza. Nel frattempo,